Bino aka Freestyle XXX. Volevate una sigla, io non faccio sigle, faccio freestyle. Radio XXX, in diretta Bino On Air. Collega ti ascolta, manda messaggi, iscriviti al gruppo XXX, Bino aka Bino. E anche la radio XXX su Facebook. E già, troppi link e troppi video. Ascolta il pezzo settimanale XXX, e questo non c'entra un cazzo. Mira, un'altra entrata, sta vita una figata, l'ho detto. In bagno dopo un altro colpetto, poi mi sono corretto. Sta vita una morsa, sta vita una cinta stretta in vita. Mi sono preso di petto dopo quelle notti insonni e pomeriggi morti a letto. Che ne sai? Sì, lo so, non sono stato costretto. Cosa ho cambiato i piani, base di ogni progetto. L'ho detto, trasmetto Binè in aria XXX, diretto ogni settimana. Ma porca puttana, sempre in camera mia. Mi dirigo perché prediligo l'autonomia. Yeah. Quando do la parola poi si rispetta. Vieni in trasmissione, ti regalo la maglietta. XXX è una scommessa, bro, se questa cosa va, mi devo la qua del bongo. Stai bleffando, Bino, stai bleffando. Ti conosciamo tutti con quel faccino da schiaffi di Radio XXX. Sempre in diretta con Will, ogni martedì sera alle 21. Collegatevi in radio su Spreaker, Bino e Will. Cercate tutti i link su Facebook, su YouTube, un pezzo a settimana fuori, XXX, siamo arrivati al 9 adesso, poi ci aggiorniamo. Contattatemi se volete fare dei finte, grandi rapper, JJ vi sta aspettando tutti raga, questa cosa è una figata. Io parlo, svariono,